Vivere può far male, vendere per poi pagare il prezzo di essere se stessi, la pena di essere diversi, ma c'hanno mai le che lacrime sopra la pioggia che cade e la gente non mi vede. Non sono altro che un cane, un pezzo di carne da mangiare. Uomo, vuoi cambiare? Ogni colore ha un suo perché. Dimmi, per te questo cos'è? Il prezzo di essere diversi, la pena di essere se stessi, ma al cielo hai le mie lacrime, sopra la pioggia che cade e la gente non mi vede. Per voi non sono altro che un cane, un pezzo di carne da mangiare. Uomo, vuoi cambiare? Ti chiedo scusa, amore mio, lo faccio per noi, lo sa Dio, Dio, Dio. Per un futuro tuo, per un futuro mio, morirò a Dio. Ma c'è lo aire, niente lacrime, sopra la pioggia che cade. La gente non mi vede, nah, nelle mie numerose strade, ma c'è no ai le lacrime, sopra la pioggia che cade. E la gente non mi vede, no, nelle mie numerose strade. Vedrai, cambierà tutto, il mondo non sarà distrutto. Per me c'è ancora qualcosa per cui vale la pena lottare, lottare, lottare, lottare, lottare.